stesse melodie. Le luci sfrecciano lontane dietro le curve, poi si infrangono come comete opache, mentre la mente viaggia a parte, un'altra storia che ascolta la mia anima distorta, la voce stridula, faccia timida, capelli bianchi in un mare di silenzi, spenti e attenti a popolare la mia società. Man.